Bene, benvenuti a tutti quanti, alle signore e signori che questa sera condividono con noi un momento particolare, cioè appunto la presentazione delle memorie di Pietro David, che è qui con noi e che salutiamo e ringraziamo di essere venuto fino a Bolzano a condividere i suoi ricordi. È un processo lungo perché in realtà Pietro David ha iniziato, così ci raccontava tempo fa quando ci siamo ritrovati, che aveva iniziato a scrivere le memorie per così fissare i propri ricordi, come fanno tante persone spinte da questo desiderio a un certo punto nella propria vita, ma anche perché aveva incontrato un vecchio amico, Orazio Leonardi, vero? Sì. Che abbiamo conosciuto anche noi e che ha scritto anche lui dei memoriali in relazione alla propria esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi da lì è nato uno stimolo reciproco che ha portato anche Pietro David a compilare un memoriale molto ricco, molto articolato, che è stato anche segnalato e premiato alla Stazione di Pieve Santo Stefano, che da anni opera nell'ambito dell'autobiografia ed è una branca della storia moderna e contemporanea molto preziosa, che sta conoscendo un grande successo anche nell'ambito della ricerca. All'inizio è partita in sordina questa del filone della memorialistica, ma oggi invece è assurda, diciamo, ai livelli di riconoscimento proprio scientifico di valore. E come mi è capitato di leggere l'altro giorno in un libro dedicato alla Val Venosta, ogni singola storia di ciascuno di noi si inserisce chiaramente in un contesto universale e contribuisce a dare una testimonianza preziosa, e quindi proprio perché siamo degli individui che abbiamo vissuto, visto e provato delle emozioni, e quindi ringraziamo anche sempre chi poi ce le restituisce e le regala al pubblico, come in questo caso fa con noi questa sera Pietro David. Lo accompagna in questa serata con una sorta di intervista il mio collega Patrick Urru, che è specialista in antropologia culturale e che quindi si muove da anni nell'ambito appunto delle video interviste e degli studi della storia moderna e contemporanea. Ringrazio poi anche Sandro Mitolo, Paolo Mitolo e l'ingegner Lofaro, che ci alterneranno la serata con alcune letture direttamente dal memoriale. E ringrazio in particolare Lucia, la figlia di Pietro David, perché è stata lei la promotrice di questo incontro. Siamo scritte mesi fa, mi aveva chiesto così se potevamo trovare spazio nell'ambito di questo filone della memorialistica per il memoriale, e io continuavo a dire: ma perché questo nome, questo cognome me lo ricordo? Poi ho preso coraggio e ho chiesto: ma non è che ci siamo conosciute, e infatti, oltre a varie legami che abbiamo e conoscenze, c'era stato un precedente che vorrei citare. Quando abbiamo video intervistato nel 2004, mi sembra, la zia Teodora David, che insomma ha vissuto fino a 108 anni, che era stata una testimone diretta dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, perché faceva il liceo, correggimi se sbaglio, e è stata per noi preziosissima perché ci ha raccontato una Bolzano veramente inedita in tempi molto lontani, ma che lei ricordava con una vivacità, una precisione veramente invidiabili. Basta, lascio la parola ai nostri ospiti, al nostro ospite e a Patrick, e vi auguro a tutti una buona serata con l'invito di tornare a trovarci in biblioteca. Siamo qui al piano di sotto, all'angolo di via Marconi. Grazie. Acceso? Funziona? Sì, dopo lo accendiamo. Intanto volevo fare una breve introduzione. Sì. E allora, buonasera a tutti, grazie alla direttrice Valeria. Io appunto, come detto, sono Patrick Urru, lavoro come bibliotecario qui alla Claudio Augusta, quest'anno sono 10 anni, quindi è un po' di tempo che lavoro qui, e come ha detto Valeria io mi occupo da qualche anno diciamo, sono laureato in antropologia a Bologna e quest'anno mi laureerò a Venezia in magistrale sempre antropologia. Ho avuto occasione di confrontarmi con diciamo così, la storia orale, quindi l'intervista e diciamo così il colloquio informale, come viene chiamato, con vari testimoni, tra cui anche Pietro David di recente. Io sono qui oggi per accompagnare Pietro in una presentazione di questo memoriale, appunto, un memoriale che è molto denso. Sono dal 1939 al 1946, come potete vedere nella slide, ne sono successe di tutti i colori, quindi cercheremo in questa serata di affrontare i temi, diciamo così, più importanti, più interessanti. Io sono qui anche per spiegarvi da dove siamo partiti e come siamo arrivati questa sera con Pietro Davide, in altre sere con altri protagonisti. Come dicevo, la biblioteca, fino praticamente dalla sua nascita, o comunque i primi anni 2000, ha messo in piedi, ha dato il via a questo progetto di archivio fonti orali. Era il 2004, era un progetto molto molto importante perché aveva l'obiettivo di raccogliere, e ce l'ha fatta, 150 interviste a persone che hanno vissuto a Bolzano in vari momenti, diciamo così, importanti della storia di Bolzano. Diceva prima Valeria anche Teodora Davide, quindi, e nella videointervista c'è Teodora accompagnata proprio da Pietro in quell'occasione, quindi abbiamo già un legame con la famiglia Davide, quindi è bello essere qui anche questa sera per questo motivo. Dicevo, 150 persone intervistate, l'archivio è consultabile in sede e alcune persone sono anche qua in sala che sono state intervistate, vedo Ada Vita qui in prima fila e altri. Il progetto Archivio Orale nasce, come diceva Valeria prima, perché la memoria, Biblioteca Claudio Augusta, ha sempre pensato che la memoria fosse importante da raccogliere, perché sono poi quei ricordi che, se non vengono in qualche modo catturati e conservati anche in delle istituzioni che possono conservare, poi possono mettere a disposizione questa memoria anche dei cittadini, questa memoria poi si perde. Quindi è un progetto interessante, è un progetto anche che diciamo così si lega anche a un percorso di storia, di studi storici che diciamo intorno agli anni 60 hanno iniziato, 50-60 hanno iniziato ad interessarsi di testimonianze orali. Prima erano viste un po' come, diciamo, con sospetto, perché la storia era solo la storia ufficiale, quindi era la storia soprattutto delle battaglie, delle grandi guerre, insomma, dei generali, delle vittorie. Grazie ai movimenti operai, ai movimenti femministi, le tradizioni popolari, si è iniziato ad interessarsi in modo deciso, in modo convinto, anche alle testimonianze, diciamo così, di quelli che venivano chiamati marginali, no? Di quelle persone che erano spettatori della grande storia. E noi come biblioteca abbiamo voluto portare avanti e inserirci in questo filone di studi storici, ma anche antropologici, sociologici. L'archivio orale è legato poi alla memorialistica, perché in questi anni alcune delle videointerviste o alcuni degli incontri con i testimoni che hanno vissuto in questa città, soprattutto a cavallo soprattutto nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, ma anche prima, hanno dato un risultato. Hanno dato serate come questa sera, dove venivano restituite le memorie ai cittadini. E in alcuni casi la biblioteca è riuscita anche a, diciamo così, realizzare delle pubblicazioni. Io qua ho inserito solo alcune, pochissime, delle copertine di memorie che abbiamo presentato e in parte realizzato. Sono contento di vedere tra il pubblico Barbara Ritter, la figlia di Anna Maria Rold, che ha scritto, come vedete, il primo diario, vedete che è manoscritto lì in alto. C'è Ada Vita in prima fila, il mio segreto diario di guerra. Si è ricordato prima Orazio Leonardi, un libro che abbiamo presentato con lui qui. E poi gli ultimi due, Petto in fuori, pancia in dentro e Mi ricordo, sì, mi ricordo, che sono proprio pubblicazioni proprio volute e realizzate dalla biblioteca, e sono il frutto di una espressione scritta di due testimonianze, anzi tre testimonianze orali che avevamo raccolto, con la speranza che anche la testimonianza di Pietro un giorno possa rientrare in un progetto, diciamo così, editoriale. Arriviamo a Pietro David. Valeria l'ha anticipato prima. La Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, per chi non la conoscesse, dall'84 circa raccoglie, 1984, raccoglie memorie, diari, scritti che gli vengono inviati, e ogni anno, diciamo così, bandisce questo premio Pieve Santo Stefano. Nel 2010 Pietro David è stato premiato fuori concorso con il suo memoriale. Se andate nel catalogo dell'Archivio Diaristico Nazionale troverete la scheda di questo memoriale, anche di un altro, di un racconto sulle, diciamo così, gite in montagna. Troverete anche la scheda di un paio di racconti di Ada Vita, ho scoperto, quindi, che anche lei ha inviato i suoi memoriali all'Archivio Diaristico Nazionale. Quindi siamo qui questa sera per valorizzare anche noi, come fanno altre istituzioni in Italia, come appunto l'archivio di Pieve Santo Stefano, queste memorie. E quindi siamo a Pietro David, che ringrazio. E io qua ho inserito... Io ho inserito una prima slide dal Cadore a Gries, è una foto della casa di Gries, e quindi chiedo subito a Pietro Davide innanzitutto di presentarsi o comunque fare i suoi saluti e poi spiegarci come la famiglia di suo papà è arrivata a Gries e le vicissitudini che precedono il memoriale. Il memoriale inizia nel 1939. La mia curiosità era quella di scoprire come la famiglia di Pietro è arrivata a Gries, e quindi chiedo a Pietro ora di raccontarci queste vicissitudini. Grazie. Cercherò di farlo nel modo più breve, più breve possibile. No, però innanzitutto vorrei fare i complimenti a signora Valeria e anche a te, infatti, per la validità dei vostri interventi. E ringraziare voi e chi altri, insomma, si è prestato a organizzare questa cosa qui. No, però vorrei anche ringraziare ancora una volta mia figlia Lucia e mia nipote Teresa, dove è finita Teresa? Perché sono in realtà loro le vere artefici di quella cosa che ho scritto, no? Che ti hanno spinto quasi costretto a... ecco, magari altrimenti non mi sarei mai deciso. No, e poi vorrei anche fare un'altra piccola premessa, insomma, che una parte del mio racconto, precisamente la prima parte e forse anche l'ultima, all'infuori degli avvenimenti importanti, sono di una banalità, no, che fa da ridere, insomma. Non ci sono Pietro, memorie banali, ecco, ne abbiamo già parlato. Sì, ho capito, però. Quindi non era questo il momento. No, adesso venendo alla storia della mia famiglia, è una storia un po' complessa, un pochettino te l'ho già raccontata, ma è così. Era una famiglia grande, quella di mio papà. e dei genitori di mio papà, che più o meno verso la fine dell'Ottocento i nonni erano andati per conto di un'azienda italiana, ma a lavorare in Austria, che all'epoca era come andare non so dove, cioè era come oggi per andare in Carinzia in macchina, si va in 3 ore, no? E si può andare e tornare in giornata. Loro probabilmente, quando hanno deciso di trasferirsi, parlo dei nonni, si erano portati dietro un po' di cose e sono andati a abitare in Austria. Ecco, e lì mio nonno appunto ha lavorato per conto di un'azienda italiana che trattava legnami, che importava legnami. Ecco, e un certo numero dei figli sono nati in Austria, compreso mio papà e anche la famosa zia Dora, quella di cui ne abbiamo parlato, che era diventata la zia di tutti. E sono alcuni sono nati e cresciuti, andati a scuola in Austria e rimasti fino all'inizio della prima guerra mondiale, cioè nel 1915, e vivevano gli ultimi anni a Villach, a Villaco, praticamente ai due passi dal confine, però erano in Austria, erano all'estero, insomma. Ecco, a quel punto poi sia l'azienda dei legnami italiana ha ritirato tutti i suoi beni, ha chiuso l'attività, e anche i miei sono rientrati in Italia, insomma sono rientrati al paese natio, che era Ospitale di Cadore, un paese estremamente povero, specialmente all'epoca, dove però avevano una vecchia casa piuttosto grande, insomma era più un casermone che non una casa, non si pensi a una bella villa o chissà cosa, ma lì insomma ci stavano tutti, e sotto c'era addirittura la possibilità di avere un piccolo laboratorio, però lì le cose sono durate molto poco, perché poi appunto una volta iniziata la guerra gli austriaci hanno cominciato a penetrare anche sul territorio italiano, e quando c'è stata poi la famosa che la chiamano la rotta di Caporetto, che si è conclusa con Caporetto, e queste truppe tedesche scendevano proprio anche lungo la valle del Piave, e di conseguenza tutti gli abitanti venivano fatti allontanare prima, a prescindere dal fatto che mio papà e altri due zii maggiori erano già stati richiamati a un servizio militare, le sorelle, quelle no, quelle sono finite profughe, addirittura in ciociaria dalle parti di Frosinone, in un paese, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, di Atina, è una zona molto soggetta ai terremoti già all'epoca, e lì sono rimasti tutto il periodo, praticamente fino a fine guerra, e dopo in realtà si sono riuniti fratelli e sorelle a fine guerra, prima a Como, e poco dopo mio papà ha preso l'iniziativa di pensare di riprendere un'attività nel settore legnami. Ecco perché è arrivato a Bolzano, e poi è venuto su anche un fratello maggiore di papà, Costantino, poi anche l'altro, e in breve hanno rimesso in piedi un'azienda loro, non più alle dipendenze di un'altra ditta italiana. E nel primo momento appunto erano sistemati in una pensione agrigliese, e poi a un certo punto si è resa libera una casa, quella famosa dove che esisteva già, quella era stata costruita nel 1904 da un signore di Berlino che veniva, questa è una parentesi che apro, una parentesi tipo turistico balneare, perché questo signore veniva a soggiornare d'inverno a Grieste. Grieste è sempre stata mite, insomma lo sappiamo, ci sono, c'erano tante pensioni e alberghi, e questo si era costruito la sua casa, infatti lo stile è un po' particolare, e veniva a soggiornare lì finché poi naturalmente era già anziano, è venuto a mancare. E questa casa si è resa libera, ecco, allora mio papà in primo tempo era presa in affitto e successivamente appena possibile l'ha acquistata, e la cosa si è resa possibile quando appunto papà aveva, a nome di tutti gli altri fratelli e altri parenti, aveva potuto incassare i danni della vecchia casa di ospitale, quella che era stata semi devastata e distrutta dalle truppe, dalla guerra, dalla guerra, insomma, no? Ecco, con quei soldi lì, forse qualcosa che avevano anche da parte, messo da parte, che papà si dice, ha acquistato questa casa e tutti sono andati a abitare lì. Un'altra casa grande, quindi, dove ma siete andati tutti ad abitare insieme, quindi. E questo insomma è un po' il sunto di come sono arrivati a Bolzano, ed era d'altro canto molto logico, sia perché papà e i suoi fratelli e anche le sorelle tutti sapevano anche il tedesco molto meglio di quello che so io oggi, e poi venivano tutti dall'attività del commercio e legnami, anche dalla produzione, insomma, ecco. Quello che avevano fatto prima, gli anni precedenti, in Austria. E loro avevano messo in piedi questa ditta che si chiamava Fratelli David Legnami. E a quell'epoca lì non si pagavano le tasse come oggi, e in pochi anni. No, ma è la verità, devo dire queste cose, no? Certo. E in pochi anni hanno fatto i soldi, insomma, cioè era un'azienda che lavorava, era un bel trio di persone, ognuno aveva il proprio compito, uno degli zii era perennemente in viaggio e faceva il rappresentante di commercio, solo certo. Non aveva la macchina come oggi, girava il treno e quindi vi siete trasferiti, la famiglia si è trasferita da quella volta lì. Non certo da oggi a domani, ma si sono riuniti poi tutti, ecco, anche per esempio la famosa zia Dora, che lei era rimasta a Como perché lavorava in banca a Como, no? E non poteva lasciare. Ecco, adesso vorrei anche dire perché a Como. Perché a Como viveva uno degli esponenti della famiglia De Mars, che erano di Longarone, non di Ricadori, cioè di Longarone, e di quella famiglia faceva parte mia mamma, che poi ha sposato mio papà. Certo. Ecco come sono andate le cose, l'unione delle due famiglie. Da adesso però qui la sto tirando troppo lunga. No, no, sì. No, chiarito benissimo i motivi che ha spinto la tua famiglia a venire a Bolzano, anche per avvicinarvi di nuovo all'Austria, che era un mercato favorevole. Non era tanto per quello, no? Un mercato favorevole per il legname. No, erano tutti molto concreti, pensavano al lavoro, certo, all'attività, e l'hanno saputo fare alla grande, insomma. Ecco, tra l'altro c'era il fratello maggiore di mio papà, Costantino, che non nominiamo mai, e qui in sala c'è una nipote di Costantino, che sarebbe figlia di Alfonso, quello che ha fatto la guerra in Grecia, no? Come tu hai letto la storia. Certo. Ecco, e quindi la famiglia si è trasferita lì e tu sei cresciuto. E lì siamo rimasti tutti, sono nato io, è nata mia sorella, cioè è nata prima mia sorella, e certo. Purtroppo non c'è più. E qui nel 39 inizia il tuo racconto. Sì, ecco, adesso qui vorrei dire anche qualcosa a proposito del racconto, no? Siccome il primo. Non è che so scrivere molto bene, no. e il secondo finisce che è andato a venire che ho scritto anche delle banalità proprio da ridere. Questo perché quando mi metto a scrivere pian pianino mi immedesimo nell'epoca, no? Ritorno indietro nel tempo. Paradossale, insomma, da uno che ha più di 90 anni, insomma, che no. Ma veramente è così, no? Quando, certo, se metto lì 10 minuti no, ma se mi metto di impegno magari un'oretta. Se ti concentri. Mi concentro e torno proprio indietro, mi vengono mano a mano, non solo in mente dettagli di episodi, che poi magari li inserisco nel racconto, ma proprio il. Mi sembra quasi di rivivere, quasi certo. Di ringiovanire, insomma, no? Ecco perché sostengo e ripeto che avrò scritto delle banalità incredibili, insomma. No. E, cioè, proprio la prima parte è proprio roba da bambini. Adesso magari la vediamo insieme, cerchiamo di ricostruirla insieme. No, dopo è chiaro che mano a mano che insomma, gli anni passano, tanto più. Dopo l'inizio dell'ultima guerra è chiaro che tutti i dettagli del racconto sono cambiati. Certo, no? Certo. E tu vieni subito in qualche modo preso da tuo papà e ti porta a lavorare in segheria che non era a Gries ma era all'epoca poi i fratelli, i due fratelli maggiori si erano divisi perché appunto anche il fratello maggiore di papà Costantino aveva già due figli grandi e allora aveva pensato bene se sarà il caso di scindere e fare due piccole aziende e voi vi siete spostati a Fuori. Sì, insomma io poi appena finito quel po' di scuola che ho fatto io insomma era se non un biennio di istituto tecnico commerciale. Certo. E lì inizia il tuo racconto. Ecco lì che da lì inizia la parte più seria di tutto il racconto, no? Racconti, io ho scritto qui ricordi di guerra, ma non solo, visto che nella posizione è interessante la posizione della piccola azienda Funes che avevate perché era vicino alla stazione dei treni, avevate, potevi vedere un bel passaggio di treni e vedere anche molte cose che... Sì, è così come spesso a volte vanno le cose, non è che mio padre avesse assolutamente pensato di andare a costruire una segheria lì a Funes, così decentrata poi in mano, ma perché... Perché lì si era reso disponibile un terreno, c'era il vecchio proprietario che si vedeva bisogno di soldi e chiedeva insistentemente che qualcuno, in primo tempo aveva preso un pezzo di terreno in affitto, poi l'aveva acquistato, ma anche perché in virtù del fatto che lì c'era la stazioncina e c'era anche un piccolo scalo merci, cioè un binario di derivazione dove a richiesta si poteva avere i vagoni a disposizione sia per il carico che per l'eventuale scarico del legname. E quello, certo. quello però è durato poi pochi anni dopo la guerra, poi tutto. Ma nel frattempo però hanno cominciato a circolare i camion, certo. Gli autotreni. Quindi Pietro, spettatore anche molto giovane, perché comunque 14-15 anni, sì, gli avvenimenti io, però... Assolutamente, ma addirittura tra l'estate, tra i miei 14 o 15 e i miei 16 anni, cioè tra il penultimo anno di scuola e l'ultimo, l'estate, mica si andava al mare a quell'epoca, io... Si andava a lavorare. A bighellonare, ma neanche per sogno. Io il giorno dopo ero già con mio papà alle 7 della mattina in treno per andare a Cuneo a lavorare. Certo. Che poi attualmente a quell'epoca lì io non sapevo cosa avrei potuto fare, no? E allora mio papà diceva, ma sì, chi ma dare una mano in diretto, no? Certo. Dare una mano agli operai, domande che loro si sanno, infatti loro mi chiedevano, perché gli operai erano un po' misti, c'erano alcuni italiani, i veneti, e poi c'era qualcuno del luogo che parlava in tedesco, in dialetto, insomma. Certo. Quelle cose lì, caldo, mi hanno favorito molto anche nell'apprendimento del dialetto. No? Del dialetto. Non è che l'avessi studiato tanto, sei. No, però. No, ma... una degli avvenimenti che mi ha colpito nel tuo racconto e che citi in un paio di occasioni è, visto la vicinanza, visto che prendevi sempre il treno, era la partenza, visto anche il periodo, di chi aveva deciso nel periodo delle opzioni aveva scelto di andare in Germania, e quindi tu in alcuni passaggi racconti di aver visto delle scene anche abbastanza toccanti. Sì, quello è tutto più avanti. Sì. Adesso se vuoi posso chiarire un po' quando sono iniziati a partire i primi dei cosiddetti optanti, cioè in tedesco li chiamavano gli Auswanderer, certo, che avevano scelto. E comunque entro il 31 dicembre 39 bisognava scegliere. No, in realtà poi le partenze sono iniziate solo successivamente, in anni sì. Tardi, pare nel 41, no? Non cioè chi si era in qualche modo fatto. Chi in qualche modo aveva accettato di vendere le proprie terre e partire. E tu scrivi che hai assistito anche a delle partenze e sì, anche dei momenti. Sì, noi essendo lì in stazione ogni mattina al nostro treno, che era un po' Stalin, un cosiddetto accelerato, che veniva giù da Verona, da Trento, e faceva una sosta piuttosto lunga a Bolzano, perché doveva cambiare i locomotori o comunque aggiungerne uno o due per affrontare le salite del Brennero, perché erano già locomotori elettrici potentissimi ma non a sufficienza. E allora con l'occasione a Bolzano venivano svolte un sacco di mansioni, non le ho neanche ancora citate, attorno ai treni, anche ai treni internazionali, proprio a Bolzano, visto che fermavano almeno 20 minuti, allora venivano fatte anche queste operazioni. Allora c'era l'uomo col martello, col manico lungo un metro, che passava da sale all'alto, dalle ruote, pom pom, a battere per sentire se suonasse bene o no, è come battere su una certo. Campana. E poi c'era la squadra di addetti con i tubi d'acqua che andava a rimboccare l'acqua al di sopra dei bagnetti, l'acqua era nel senso, no? Praticamente. E dopo ancora c'erano gli addetti alla sostituzione delle grosse batterie per dare la luce di notte, che nelle gallerie, perché ancora non c'erano i dinamo sotto ogni vagone, che sono venuti dopo, insomma. Cioè, come sono stati i tedeschi per primi allora a Bolzano venivano fatte tutte quelle manovre lì e richiedevano un certo tempo, più il carico dei bagagli, della posta dicendo. E nel periodo di trasferimento, adesso veniamo agli optanti, fin dai primi che sono partiti, ne partivano un certo numero ogni mattina, perché e le ferrovie tedesche avevano messo a disposizione due vagoni che li avevano portati a Bolzano e venivano attaccati ogni mattina a quel treno in coda, e lì salivano circa su due vagoni 80 posti l'uno, insomma più o meno 150 persone, più un vagone merci chiuso, naturalmente, dove ciascuno poteva caricare quello che voleva, non animali però. Salvo che non fosse il cagnetto. Sì, piccoli animali da compagnia. Sì. Ecco, però qualcuno vedevi subito il contadino che non rinunciava, per esempio, ad uno dei suoi carri agricoli, cioè mica i trattori, sai, questa cosa, oppure un altro che si portava dietro addirittura i badili, la carriola, i picconi, gli arnesi, perché che poi non tutti, una volta arrivati in Austria, non tutti avevano trovato subito la sistemazione che credevano. Certo. La maggioranza, praticamente i più poveri, quelli che non avevano venduto niente qui in Italia e niente da recuperare di là, sono finiti in realtà in grandi baraccamenti. Grandi accampamenti. Di cui il più grande, mi ricordo che ancora negli anni, a metà degli anni 50, era ancora in piedi dalle parti di Spital, lungo la Drauta, lungo la valle, e ancora qualcuno abitava lì, non teniamo niente a che vedere con i baraccamenti di tipo militare o di prigionia, assolutamente no, era gente di legno, però molti, insomma, una volta in auto, questi auswanderer, chi aveva tanti soldi finiva con l'acquistarsi una proprietà e qualcuno l'ha fatto e si è sistemato bene, ma la maggioranza di quelli che sono partiti erano i nulla tenenti, i primi, speravano tutti in chissà quale nuovo tipo di vita. Dimmelo se vado troppo. No, è perfetto, eh? Perfetto. Sei nella domanda. Stiamo lavorando. No. E quelli, molti altri, per esempio anche una nostra parente, era giovane, una ragazza con sua sorella, all'epoca anche la sua famiglia aveva optato, io cito solo quello che so, esattamente, certo. Sai, poi i casi, e anche queste erano finite prima, non so, dalle parti di Innsbruck, poi addirittura a Stoccarda, dove però casualmente sono finite in una zona sotto le bombe, insomma se la sono cavata per miracolo. Capisci, non sempre era tutto dei fiori. E comunque alla partenza di ogni mattina di questi vagoni con questi più o meno 150 auswanderer che partivano, nei primi tempi c'era sempre una gran festa, c'era intanto un'orchestrina, c'era un'organizzazione con tanto di fascia con la croce, con la svastica, che organizzava tutto e grandi bevute, c'era a volte anche una, come li chiamano quelle donne in costume che a volte... Sì, ma come le chiamano quelle che a volte portano la botticella con i bicchierini? La vivandiera. Come hai detto? Vivandiera. Ah, vivandiera, sì. Ecco, i bicchierini e le viva e Hitler soprattutto si sprecavano la mattina all'alimentazione. Certo. Poi quella cosa lì a mano è andata pianino scemando, sparita la vivandiera, sparite i grappini e la musica. E comunque per molti io mi ricordo molto bene quelle scene tristi, magari c'era gli uomini che facevano finta di festeggiare, di essere contenti, ma le donne intanto già sistemate nel vagone piangevano, insomma, niente da fare. Poi ho visto anche il caso di un giovane facente parte di una famiglia numerosa, tutti inneggianti a Hitler, e però un giovane invece non ne voleva sapere, all'ultimo momento è saltato giù dal treno, un attimo prima della partenza, e è partito attraverso i binari in direzione ai piani di Bolzano, ecco, perché non voleva partire. Naturalmente il treno è partito con ritardo, ma ovviamente lo hanno inseguito fino a che l'hanno raggiunto, quello lì con la, certo, la fascia. La fascia. E lo hanno rimesso sul treno, ma succedevano anche quelle scene lì, certo. Doveva essere bello, io quelle cose lì le sentivo molto, no? Perché purtroppo le vedevo tutti i giorni, no? E anzi proprio a questo proposito credo di aver scritto poco, l'argomento avrebbe meritato ben di più, però. Beh, faremo una seconda parte dedicata alle occasioni. Faremo una seconda parte, dico, dedicata. Ma no, hai ragione, ma no, adesso sto sto annoiando un po' tutta. No, non è vero, sono racconti interessanti. Quando mi dilungo dopo, perché... Quindi spettatore tu hai capito, mi immedesimo nel paese, tornato lì, guarda. E questo è il bello del ricordo, no? Del ritornare indietro nel tempo. Quindi spettatore di avvenimenti, insomma, che hanno caratterizzato la storia di Bolzano. Come no, senza quello, certo. Carità, ma... Qualcosa mi hai raccontato anche di quello che i tuoi parenti, che erano impegnati, l'abbiamo detto prima, Alfonso in Grecia, Albania, Emilio e Beh, loro erano più grandi di me, i miei cugini, allora uno era il papà di mia cugina Maritza, quel signore elegante lì, e era il papà Alfonso, che era del 12, era del 12 il papà? Sì, 12. Ed era finito in Grecia, però per fortuna anche lui mi pare che non fosse finito subito al fronte, sempre in virtù del fatto che conosceva il tedesco abbastanza bene, certo. Pertanto aveva anche mansioni così d'ufficio, credo, e gli è andata abbastanza bene, ma ciò nonostante, quando dopo un anno e mezzo è tornato a casa, è tornato e è venuto a trovare noi a casa, nella vecchia casa, e io la sera, era perché c'era poca luce, ma più o meno non l'avevo neanche riconosciuto, certo. E invece Emilio era in Russia successivamente, e poi l'altro fratello più giovane, Emilio, che era del 15, e anche lui era partito col corpo di spedizione per la Russia, certo. Ma è stato molto fortunato, ma soprattutto molto in gamba, sapessi. Aveva delle mansioni particolari, credo che le abbia anche scritte. Sì, l'hai scritto. Lui era un ufficiale di collegamento, pertanto non era un ufficiale qualunque, aveva a disposizione, appunto, essendo ufficiale di collegamento, cioè cosa vuol dire? Lui doveva fare il rapporto di tanto collegarsi con i nostri ufficiali italiani, i grandi capi, con il generalissimo, che era in quel caso lì, sulla parte meridionale del fronte russo, era il generale von Puck, generale di corpo d'armata, sì. Da notare che quelli erano tutti ufficiali di famiglia nobile, d'accademia, e mi dicevi che avevano fatto l'accademia, fatto l'accademia, avevano una preparazione, non vi dico, poi in realtà è chiaro che quei personaggi lì nessuno finiva al fronte, certo. Diretto. Ecco, il mio cugino Emilio, comunque anche lui, perché conosceva il tedesco abbastanza bene, e era tra l'altro ufficiale, aveva fatto la scuola militare di Palermo, di ufficiali di Palermo, e poi non solo, era stato anche addirittura accompagnatore del Führer quando era venuto in Italia. Adesso dovrei chiedere a mio nipote Paolo in che anno è venuto il Führer in Italia, era il 38, mi pare. Eh sì, mi pare di sì. E tutte... Ci ha dato la foto, mi pare che fosse sì, 38, sì. Ecco. E non è venuto una volta solo, ma comunque. Con una foto ricordo firmata. Com'è? È l'episodio della foto che hai scritto nel memoriale, ecco, aveva lasciato con l'autografo. In compenso, appunto, Hitler in persona, quando lo ha, si sono incontrati, al Brennero le ha dato una sua foto personale grande. Autografata, sai che valore poteva avere quella foto lì? Chissà adesso che valore. Chissà adesso, dico che... Non lo so, comunque, cioè, tu hai già capito che anche loro, questa generazione, non erano proprio di qualunque. No, certo. E soprattutto fortunati, perché non erano tanti quelli che tornavano poi dal fronte greco che mica meno dalla Russia, dalla Russia, certo, dalla campagna di Russia. Io adesso vorrei fare un salto, sì, e a una data che tutti insomma sanno e ricordano bene, che è l'8 settembre 1943. Sì, ah beh sì, in avanti. Abbiamo fatto un bel salto in avanti, e io qui ho segnato due avvenimenti che mi hanno colpito perché sono molto interessanti. Il primo è quello della questione del tuo cognome. Ah beh sì, sì, come no? Ma sì, quello è riguardato direi più mio papà, che non. Sì, certo. Io di presto, certo, se avessero mandato in campo di concentramento sarei partito anch'io. Certo. Tutta la famiglia. Tutta la famiglia, ovviamente. E quindi se ci vuoi raccontare brevemente questo equivoco che c'è stato quella sera, sì, che eravate in stazione. Niente, anzi un episodio che sembrerebbe, può sembrare di poco conto, insomma, adesso non lo era per niente, ma è successo, credo fosse però non nel 43, ma forse addirittura già nel 44. Sì, sì, dopo, successivamente, sì. Ciò che io mi meravigliavo molto, che quando insomma nel 44 già le cose per la Germania non è che andassero molto bene, cioè andavano già molto male, e che avessero ancora a pensare a stare dietro se per caso c'era qualcuno che potesse avere un nome ebreo, no? Infatti quella sera, quando siete usciti dalla stazione, c'erano due uomini che vi aspettavano. Sì, ecco, noi siamo arrivati come tutte le altre sere, cioè con mio papà, no? dalla segheria, il treno, e noi abitualmente poi avevamo sempre l'abbonamento del tram, prendevamo il tram in stazione e venivamo a Grieti, insomma. Ecco, lì mi ricordo che proprio mentre attraversavamo il piazzale della stazione, che oggi praticamente non si potrebbe attraversare così, ma all'epoca non passava una macchina, non passava niente, forse qualche bici, e sono avvicinati questi due signori col cappello nero, e io non avevo capito subito chi saranno i signori lì. Mio papà invece aveva capito al volo, però non si è scomposto molto, anche perché gli ha risposto in tedesco, a me ha detto: ti va a casa, dica alla mamma che arriverò un po' più tardi, no, e niente di più. E infatti ho riferito a casa, ma in realtà erano i due classici della Gestapo, no? Con il Mercedes nero posteggiato poco più in là, dove oggi fermano gli autobus, sì, dal lato della stazione, e se lo sono portato via. È stato solo, diciamo, per tanto una richiesta di informazioni. Comunque mio papà era abbastanza scosso, perché lui aveva capito benissimo chi erano, e io no. L'ho capito dopo, soprattutto dopo, quando a posteriori ho visto dei film, sai quante volte li abbiamo, certo, visto, quei tali, sì, con Mercedes nero, sempre vestiti nero. Comunque mio papà lo hanno portato poi a casa circa un'ora dopo, tant'è che io dicevo: ma va, che gentili, arrivo a anche portato a casa. Col cavolo, voleva sapere dove abitavate, dove eventualmente sarebbero venuti a colpo sicuro a prenderci, no? Perché volevano sapere. E allora mio papà ha cercato di spiegare e comunque ha avuto l'incarico di fare degli accertamenti. Allora mio papà si è dato da fare, e infatti il giorno dopo non è venuto in segreteria, ma non diceva niente, sai, non certo, sai che riferisse a me quelle cose, e era molto di poche parole. E ha dovuto iniziare. E comunque ha spedito subito una lettera con dentro un bel po' di contanti alla canonica di ospitale di Cadore, e da lì veramente dopo non molte settimane il parroco ha mandato una risposta sull'origine del cognome, un bel curriculum della storia della famiglia David, e è risalito fino al 600, quando gli avi nostri non abitavano capitale, ma erano al sud di Belluno, in una zona dove oggi è un po' come a Caldago, tutto vigneti. Sedico Bribano, avete presente quei posti lì, chi è che sa dirmi dove è una conca belloccia, oggi sono un sacco di bei vigneti, anche se all'epoca chissà che vini strati che facevano. Comunque le origini del nome era da vite, che poi pian pianino è diventato David e poi David, e poi però più avanti si sono trasferiti appunto i miei, non so perché, ospitali di calore, non lo so. E quindi non c'entrava niente? Non c'entrava per niente. Poi il papà ha avuto anche, dopo un paio di mesi, la risposta dall'Istituto Araldico di Firenze. E quelli hanno più o meno dato la stessa versione, hanno addirittura mandato uno stemma con la vite. Sì, con la vite, con i tralci di vite attorno al nome della famiglia, non so dove l'avessero tirato fuori, comunque. E quindi la cosa può essere risolta bene, lì, per fortuna. Purtroppo sappiamo tutti che non a tutti è andata così bene come certo, noi, insomma, no? Certo. Io sono arrivato al settembre 43 perché c'è un tema, diciamo, un tema tragico, no? Dal settembre 43 all'aprile 45 Bolzano viene sistematicamente bombardata, e questo è un argomento che tu affronti spesso. Prima di chiederti di raccontarci alcuni episodi, sì, io vorrei chiamare qui la persona che il lettore numero uno, che adesso leggerà una parte del tuo... Abbiamo una sedia. No, in piedi. Leggerà una parte del tuo memoriale dedicata proprio a uno dei tanti bombardamenti. Quindi noi adesso facciamo una pausa, sì, e sentiamo le parole. È il primo lettore, e questo è una parte del tuo memoriale dedicata a uno dei bombardamenti. Di recente tutti gli uffici della parte amministrativa delle ferrovie. Di recente tutti gli uffici della parte amministrativa delle ferrovie, sempre a causa del rischio bombardamenti, erano stati trasferiti nella zona di Gries, esattamente al piano rialzato di una delle grandi case incis di via Collana, di fronte alla chiesa dei Carmelitani. In quel posto, anche dopo l'allarme aereo, i dipendenti potevano stare più tranquilli, ed anche per me poteva andare bene, in quanto nel caso dell'allarme aereo mi venivo a trovare a pochi minuti da casa. Ricordo che noi a Gries ci ritenevamo al sicuro, ed anche in pieno allarme si pranzava tranquilli. Quel giorno, 14 gennaio 1945, mi ero recato per l'appunto in quegli uffici per il disbrigo delle consuete pratiche. Stranamente all'ingresso sostava di sentinella un militare tedesco armato. Poi avevo capito, all'interno, su un grande tavolo, si trovava una montagna di denaro in banconote alla rinfusa, e tre incaricati erano intenti al lavoro di smistamento e conta di quell'enorme somma. Pareva si aggirasse sui 300 milioni di lire di allora, di sicuro gli incassi di alcune stazioni importanti. Mentre stavo sbrigando le solite pratiche era suonato l'allarme aereo, ma nella zona di Gries sembrava che nessuno vi avesse fatto caso. Circa un'ora più tardi, però, quasi all'improvviso, mentre ero a tavola con i miei, si era fatto sentire l'inconfondibile rombo dei bombardieri, che pareva fossero anche più vicini del solito. Ero balzato dalla sedia e, curioso come al solito, mi ero precipitato in giardino per vedere da quale parte fossero in avvicinamento gli aerei. Non avevo quasi fatto in tempo ad alzare gli occhi verso l'alto che il sangue mi si era letteralmente raggelato nelle vene. Gli aerei provenienti da nord-ovest erano sbucati da oltre il salto e si trovavano già sopra di noi. E proprio in quell'istante il capo squadriglia, tramite un forte segnale luminoso rosso, aveva dato il via all'inizio del bombardamento. Da quell'istante mi sarebbero rimasti una decina di secondi di tempo per mettermi al riparo. scioccato perché ritrovarsi sotto la verticale di un'intera squadriglia di bombardieri con le bombe già slanciate non è affatto piacevole, mi ero precipitato in casa chiamando i familiari come fossi ammattito, ma già ci aveva pensato papà e mi ero scontrato con loro sul giroscale che stavano scendendo verso lo scantinato. Anche i signori Nintner del piano di sopra si trovavano già sulle scale, ma sarebbe stato del tutto inutile raggiungere la cantina nel caso una bomba fosse caduta sulla casa. Intanto erano iniziate le violente esplosioni, quella volta talmente vicine da far sobbalzare i pavimenti e con un susseguirsi di rimbombi a tamburo battente che ti si ripercuotevano nello stomaco. In quel momento, con l'entrata in funzione anche della contraerea, il frastuono era divenuto spaventoso. Il violento martellamento era stato però di breve durata. Dopo un paio di minuti tutto era già finito e non appena erano cessati anche gli ultimi spari della FLAC ero uscito nuovamente in giardino per curiosare. Mi era però soltanto riuscito possibile assistere all'innalzarsi di un'enorme nuvola di fumo e polvere dalla zona che andava da Piazza Ries in là, verso est. Logicamente mi stavo interrogando sulla stranezza di quel bombardamento del tutto anomalo, ma papà aveva già intuito tutto. Gli americani avevano inteso colpire la sede del comando generale con la relativa centrale di smistamento telefonico, insediato all'interno dell'ex collegio delle suore Marcellini. Incredibilmente però le bombe erano cadute tutte all'intorno del corpo centrale del palazzo, causando relativamente pochi danni, quasi una beffa. Anche il vicino palazzo Lucale non era stato colpito. Fortunatamente non si era verificata nemmeno la temuta strage, ma una quindicina di persone erano comunque decedute. Noi, una volta in più, avevamo potuto considerarci dei veri miracolati. Non appena si erano fatte sentire le sirene del cessato allarme, ero ripartito in bicicletta diretto al solito posto di lavoro, allo stabilimento. Ma curioso come ero, non avevo resistito alla tentazione di farlo sopralluogo, passando veloce per la zona interessata dall'attacco aereo. Appena dietro Piazza Gries, all'interno del convento Muri dei Benedettini, erano cadute le bombe a noi più vicine. Già da quel punto, risalendo per via Fago, mi era toccato pedalare con cautela fra sassi, terriccio, rami e fogliame. Ma il massimo della devastazione l'avevo incontrata proprio attorno alla zona collegio delle Marcelline e case Incis. Alla vista di tutto quel disastro, mi ero anche avvicinato al posto dove ero stato due ore prima, cioè agli uffici delle ferrovie. Meglio dire a quel che ne era rimasto, una bomba era caduta proprio all'ingresso dell'edificio, al posto della scala esterna e del pianerottolo d'ingresso che era un cratere. Della presenza del povero militare di guardia erano rimaste solo delle grandi chiazze di sangue schizzato sul muro. Il portone d'ingresso non esisteva più, come le pareti divisorie interne. Il famoso tavolone carico di banconote era spiaccicato sul muro maestro dell'edificio, ma ben tre stanze più in là. Il pensiero che qualcuno degli addetti a quell'ufficio, persone che conoscevo, si fosse trovato ancora lì al momento dello scoppio, mi aveva indotto ad entrare con grande ansia e sgomento. Miracolosamente, però, tutti avevano abbandonato gli uffici per recarsi a pranzo. Grazie. Bravo. Grazie. Grazie a te. No, però ha detto questo passo qui. Sì. Si riferisce praticamente a uno degli ultimi bombardamenti. Forse siamo saltati un po' troppo rapidamente in avanti. Tu vuoi sapere qualcosa dell'inizio? Volevo introdurre proprio questa lettura. E quindi darti un po' di tregua con questa lettura. Quindi, ecco, ma vuoi che cito qualcosa praticamente del 2 settembre o dell'8 settembre? Perché adesso abbiamo sentito un'esperienza. Sono ancora tutti sopravvissuti e quelli che si divertono anche, quindi. Prego. Si può fare un intervento? Certo. Io voglio. Mio zio mi raccontava sì. Aspetti che le porto il microfono. Sì. Sono nipote di Pietro Rari e sono. Ciao Marco, ciao. E siccome mi raccontava sempre di un episodio al Magnesio, di quando eri presente anche tu, e avrei piacere che lo narrasse stasera, di quando ci fu questa dell'attuale non so come si chiama adesso. Scusa, non ho capito di chi, a chi ti riferisci? In zona industriale ci fu un dito. Nel momento di ritorno, di ritirata dei tedeschi, ci fu un episodio nel quale tu eri presente. Del formaggio? No. Ah beh, sì, come no? Sì, detto che ne parlassi. Sì, ma quello viene appena. Lui è un testimone vivente di questa storia della Celsa, mi ricordo bene, giusto? Della? Celsa, si chiama attualmente questa fabbrica. Nel momento del ritiro dei tedeschi, sì, delle truppe naziste, quando si stavano ritirando, persa la guerra, sì, ci fu questo episodio in zona ospedale dove tu eri presente. Io ero presente, io in bici, guardi, è stato descritto un po' in maniera diversa da quello che è la realtà dei fatti, dove mio zio era presente e la può raccontare nel dettaglio, insomma, no? E non ho capito però quale episodio si sta riferendo. L'episodio è al ritiro delle truppe naziste. Sì, in generale del ritiro, ok, sì. E nella zona attuale industriale di Bolzano ci fu un episodio di morti, insomma, no? Ma allo stabilimento Lancia? Esattamente. Certo. Non so se al tempo si chiamava già... Ho capito. Adesso si chiama Piazzetta Celsa. Siccome mio zio era presente lì, avrei piacere che la raccontasse. Certo. I testimoni viventi di questo... Sì, no, momento. Certo. Lì c'è stata... Grazie a lei, grazie. C'è stata la sparatoria di notte. Sì. Ma io lì non ero più presente, no? Cioè, io mi sono portato a casa perché... No, a me premeva mettere in salvo la bicicletta che poi l'aveva fatto. Certo. No, ma Marco, mio nipote, anche lui, certo, da parte di mia moglie. E, magari questo... è che lì dovrei aprire un'altra parentesi ancora. Io però volevo aprire arriviamo poi all'avvenimento sì, in maniera diversa da che ha richiesto. Sì. Abbiamo appena sentito di un bombardamento, sì, quindi di una scena insomma molto, sì, molto, sì, triste. Paurosamente triste e soprattutto... in quel caso lì poteva rivelarsi anche rischioso anche per noi, perché credevamo e questo è stato uno degli ultimi bombardamenti, certo, appunto la data si riferisce al 14 gennaio del 45, e credo sia stato il vero bombardamento, proprio l'ultimo, cioè una squadriglia intera che ha tentato di colpire, era l'istituto Marcellini, dove si era insediato il comando del Gauleiterhofer. E lì, tra lì e la clinica Ponticini, in galleria c'era tutto lo svissamento delle reti telefoniche, tutti i collegamenti Berlino-Roma e i vari fronti, dentro in galleria dove oggi la clinica Ponticini ha, credo, le piscine per i degenti. Ecco, sì, ecco, quelle gallerie lì erano state scavate in fretta furia dalle truppe tedesche per aver messo dentro, ma attualmente noi civili non sapevamo niente, queste cose le abbiamo sapute dopo, certo, dopo la guerra. Ma dentro in realtà vi lavoravano decine di impiegate telefoniste, si chiamavano Staffshelferin, cosa vuol dire? Chiediamo al signor Nieder Coflo che c'era qualche parte che... è un buon traduttore, era una centrale importantissima, e poi la sede delle Marcelline, che si era insediato questo comandante di tutto il nord dell'Italia, no? Come che le chiamavano? La zona delle Prealpi, cioè le province di Bolzano, Trento e Belluno, era lui che comandava. E avevamo sperato di colpirlo almeno così, però tutto questo era già avvenuto durante gli ultimi mesi del conflitto. Certo. C'è anche un episodio molto, io volevo introdurre questo episodio, diciamo così, più leggero, legato ai bombardamenti, che è questo episodio numero 2, che il lettore numero 2 volevo che leggesse, perché dopo aver sentito un'esperienza, abbiamo due lettori, dopo aver sentito un'esperienza, diciamo, tragica, forse con un tono un po' più, come dire, leggero, ci proviamo a rappresentare quel momento. Adesso sentiamo un'altra parte del tuo memoriale. Io penso che forse il microfono serve perché in fondo non si sente. Grazie. Prego. Un mattino che me ne stavo tranquillo dietro la mia scrivania, ero stato chiamato con urgenza alla famosa portineria 9. Era arrivato il treno raccoglitore con vagoni destinati al nostro stabilimento. Quel giorno però era subito sorto un grosso problema. Mancava semplicemente il capotreno Gildo, che come sempre si portava presso tutta la documentazione. Dopo ricerche e inutili telefonate, da un ferroviere dei turni della notte eravamo riusciti ad ottenere un'informazione determinante. Durante la notte una locomotiva a vapore proveniente da Ora aveva portato allo scalo merci della zona industriale alcuni vagoni merci danneggiati dalle bombe, ed uno di quei vagoni era carico di vino. L'informazione era di sicuro attendibile, pertanto senza perdere altro tempo, assieme al macchinista, mi ero precipitato verso il vicino scalo ferroviario. Quel furbacchione di Gildo era già sul posto, sdraiato sui binari, addormentato e ubriaco fradicio, con una caraffa in mano che gli era servita per raccogliere il vino che ancora zampillava da più fori creati dalle schegge di bomba nel vagone cisterna. Fin dal primo momento avevo intuito che per quel giorno me la sarei dovuta cavare da solo, senza l'ausilio del Gildo, che per fortuna si era portato presso tutti i soliti carteggi, piuttosto malconci e inzuppati di vino. Ma il più bello doveva ancora accadere. Essendosi sparsa la voce che dietro le case di un trisarco sostava un vagone danneggiato, carico di vino, la gente del quartiere stava arrivando a frotte, tanto che noi in breve eravamo stati accerchiati da uno stuolo di donne urlanti, tutte munite di caraffe, catini, secchi, pentole e quant'altro, che si stavano quasi azzuffando per raccogliere quel nettare delle fontanelle più generose. Con tutta probabilità non di nettare si sarà trattato, bensì di un vino comune e straccio, ma pur sempre è di un'occasione da non perdere di quei tempi. Sì, una delle storielle e degli episodi, no? Abbiamo voluto inserire un episodio leggero dopo. Sì, no, ma è giusto. No, ma forse bisognava specificare un po', insomma, il capotreno era un tipo bevitore. Abbiamo capito, penso. E io più volte mi ritrovavo con lui, che era già un... E lui viaggiava sempre quando questo treno, era cosiddetto raccoglitore, veniva dalla stazione in zona industriale e faceva le consegne dei vagoni carichi, non so, per esempio di carbone o che so io, e poi anche i vagoni vuoti che sarebbero caricati, poi la sera li riportava via. E in un primo tempo tutti questi vagoni venivano depositati dietro le ultime case di Oltrisarco, dove tuttora esiste un piccolo fascio di binari, sono 4, non di più, e ci sono ancora piene di erbacce, e lì c'era sempre un movimento di... Oggi nessuno usa più il treno, la ferrovia per i trasporti, infatti, ma altrimenti tutta la zona industriale era assolutamente unica, quella di Bolzano, era tutta servita con raccolti ferroviari, dal più piccolo al più grande stabilimento, al più vicino, al più lontano, no? A proposito di stabilimento, prima di venire a rispondere alla domanda del nipote, io volevo che tu raccontassi come sei finito a lavorare alle acciaierie. Io qua ho scritto arruolato, invece no, lavori pesanti. Sì. Se vuoi dire, raccontare in breve la tua, diciamo, cosa ti ha portato, costretto a lavorare alle acciaierie, partito però da una passaggio da un arruolamento effettivo. Quindi se vuoi raccontare quell'episodio che ti ha portato a lavorare ad Acciaieria, invece... Quanto mi dai di tempo? Ma devo fare qualche promessa o no? Cioè, si è trattato 10 minuti, dai. 10 minuti, ti è trattato dell'ennesimo colpo di fortuna mio, no? Perché ero stato, ovviamente, qui siamo di nuovo già nel corso dell'anno 44, e l'esercito italiano, praticamente qua in Alto Adige non esisteva più, era tutto tedesco. E avevo organizzato per la seconda volta la chiamata alle armi con tanto di visita medica. Certo. Questa volta era però tutto in mano all'esercito tedesco. Ed era tutt'altra cosa rispetto alla prima esperienza che avevo condotto un anno prima. E naturalmente anche questi, chissà perché, io pensavo che fossero in una delle caserme, non so, in via Vittorio Veneto, invece no, era sistemato questo ufficio, questo ufficio leva, in quella palazzina che fa angolo con un vicolo fucine, che anche quella all'epoca, fino a pochi mesi prima, era la sede di un piccolo, non era un convento, questo era un piccolo istituto condotto dalle monache che alloggiava studentesse, e però in quel periodo no, non più, era libero e sono insediati i tedeschi, insomma io lì ho fatto la visita medica e... Arruolato, sì, naturalmente è data evidentemente la struttura e probabilmente l'aspetto così un po' biondo, un po' da tedesco, aveva ritenuto forse il caso di inserirmi proprio nelle famose SS, no? Che vuol dire il Schutzstaffel. Certo. Ogni tanto traduci tu, no? Perché no, io mi ricordo i termini che erano quelle truppe temibili, addestratissime, seguaci del Führer, e io figura di essere stato... No, in conclusione avevo fatto quella visita lì, però all'uscita, adesso è inutile, tanto per le lunghe, all'uscita però anche in quella circostanza lì c'era una folla di giovani, c'erano dei miei amici, anche compagni di scuola che avevano fatto la stessa visita, qualcuno anche come me arruolato, so, qualcuno piangeva addirittura, ma dico, ma dai, cosa piangi, scusa, ma tu non ti rendi conto, va, che noi a giorni finiremo prima in Germania, poi ti mandano al fronte, no? Infatti qualcuno è ancora andato al fronte e non è più tornato. Ecco, invece quella mattina lì, tutta questa piccola folla lì in via Vittorio Veneto, è esattamente dove ha inizio la via del, come si chiama, del torrente lì che va giù, via Rio Molino. E in conclusione, quella mattina lì c'era all'esterno un ufficiale, un sottufficiale anziano che con dei carteggi in mano sceglieva tra di noi, insomma, e quelli che sceglieva li metteva lì a parte, no? E tra quelli sono capitato io, no? Infatti poi questo mi ha spiegato quel giorno, lui doveva scegliere 60 elementi per lavori pesanti, perché era un po' grandicello, fortunato, insomma. Sì, e allora quella sua scelta era più determinante di quella dell'ufficiale delle SS che poco prima mi aveva arruolato, hai capito? E mi ha dato una cartolina, infatti il giorno dopo mi sono dovuto, era Ferragosto, era il giorno di Ferragosto, tant'è che io dicevo, ma ne posso dire il giorno di Ferragosto? Ma non solo io, tutti dicevano, ma il giorno di Ferragosto, voi non si fa, i tedeschi si vanno l'esercito poi in quelle condizioni lì era già quasi alla fine della guerra, perché tu veniva appunto il Ferragosto del 44. E allora il giorno dopo anch'io con la mia cartolina all'ufficio del lavoro, e poi da lì distribuivano, e insomma anch'io assieme a qualche altro si è finiti a Lecce di Borgianni, e lì c'era stato un capo del palco, ci ha preso in forza e ciò che mi aveva chiesto cosa sapevo fare, ma dico io niente, però che venivo dal mondo del legno, no? Però dico, altri da fare. E legato alle acciaierie ci sono. Ecco, lì è stata una fortuna incredibile, intanto perché meno di un anno ho fatto una carriera più che brillante, insomma, per quel che mi riguardava, e ho imparato un sacco di cose. Da agrumista impiegato? Sì, per i giorni ero lì a pulire una macchina che tranciava i pezzi grossi così di acciaio con i guantoni. Poi il capo del reparto mi ha chiesto se è vero che avevo già la patente di guida, infatti l'avevo fatta l'anno prima, il 43, e allora mi ha detto ma sì, ma allora potresti farmi gruista. E allora mi ha mandato su in gabina di una gru su a 20 metri e lassù tutto da Dio. E poi non solo, c'era il fatto che gli stabilimenti avevano la mensa, e proprio quella mensa lì delle acciaierie, guidata da un tale che si chiamava Zago, era una brava persona, qualcuno forse l'ha già sentito questo nome, tu Marco l'hai sentito? È Zago delle... Sì, è morto pochi anni fa. Bicicletta di Benedetto. È un personaggio a Bolzano, sì, comunque, sai, gestiva sta mensa. Insomma, si mangiava, per me sembrava, mangiava da Dio, era abbondante, insomma, cioè si accumulano le piccole fortune, e quando sei fortunato, insomma. E Pietro è un giovane fortunato, no? Dico un giovane fortunato, infatti, è il titolo del... Sì. Ma legato alle acciaierie... Sì, scusi. Su una piccola parentesi, la dottoressa sì. Spelma qua, che si conosce con me, e voleva sapere il motivo del titolo del libro, perché si sì, chiama... Dimmi Gallia. Perché questo titolo, un giovane fortunato? Appunto perché, ma non solo perché ci mandava bene... No, perché un sacco di volte nel corso di quei 5-6 anni a cavallo della guerra io ho letteralmente rischiato la vita, mi sono trovato più volte proprio a un pelo dalla fine, insomma, per quello sono stato fortunato. Ma adesso è inutile che citiamo tutti i casi. No, io sono arrivato alle acciaierie. Io dico tutti, beh, allora lo leggete. Infatti. Io sono arrivato alle acciaierie perché ci sono due episodi che riguardano la tua bicicletta, e uno vorrei che il lettore numero 3 venisse sì, Antonio, a leggere. Un canto. Poco a noi, sei messo così elegante. Per prendere gli occhiali, anche se ho scritto grande. È mio nipote, eh? E qua i nipoti ce ne sono un bel po'. Sì. Sì, questo è un episodio che merita due parole di introduzione. Sì, ecco, narra, sì. Narra di un piccolo fatto, inverosimile, incredibile in tempo di pace, ma che invece, scusate, è molto significativo di quello che può capitare nelle ultime ore, negli ultimi giorni di una guerra. E si verifica il 3 maggio del 45, e il protagonista è appunto una bicicletta dal valore inestimabile. Quel pomeriggio, 3 maggio del 45, sempre in attesa dell'arrivo dei primi contingenti di truppe americane, avevo compiuto un giro anche in centro città. Pareva impossibile, ma dappertutto sostavano automezzi e militari tedeschi. Le strade verso il nord erano ormai totalmente intasate, al punto che anche i pochi automezzi in grado di muoversi erano rimasti bloccati. erano parcheggiati ovunque, anche nelle aiuole dei giardini di Via Dante. Proprio in quel luogo ero stato avvicinato da un soldato tedesco che intendeva acquistare la mia bicicletta. Mi aveva anche fatto vedere un bel po' di quattrini. Al mio rifiuto aveva quindi aumentato l'offerta ed era arrivato al punto di propormi uno scambio talmente vantaggioso che solo un cretino non l'avrebbe voluto accettare. Ebbene, quel cretino esisteva per davvero ed ero io. Ma cosa mai avrebbe potuto darmi quel militare in cambio della mia bicicletta? Voleva a tutti i costi consegnarmi le chiavi di un automezzo parcheggiato nelle vicinanze dell'istituto Rainero. Aveva scoperto che parlavo il tedesco e conversava amabilmente mentre ci stavamo recando verso quell'automezzo. Mi aspettavo di vedere una vettura malandata e dal colore mimetico. Si trattava invece di un grande camion Lancia 3 Ro con rimorchio, coperto da teloni e carico di forme di parmigiano. Un'autentica fortuna. Una sola forma di quel pregiato formaggio sarebbe stata sufficiente di quei tempi a coprire il valore della mia bicicletta. Era evidentemente uno dei molteplici carichi di viveri e materiali che i tedeschi, come di consuetudine, avevano depredato e portato via quale bottino di guerra al momento della ritirata. Sarebbe stato ormai del tutto inutile cercare di far proseguire quel camion verso la Germania. Meglio esitarlo sul posto in cambio di una buona bicicletta. Non posso negare che la tentazione di accettare quello scambio era stata forte. Ma il solo pensiero di come mi avrebbe accolto papà all'arrivo sotto casa con un intero autotreno che poteva sembrare rubato mi aveva convinto che fosse meglio tenere la mia bicicletta e lasciar perdere. Quella notte non avevo quasi chiuso occhio e l'indomani per pura curiosità ero ritornato sul posto. L'autotreno era sparito come il suo possessore. Evidentemente uno o meno cretino quel militare lo aveva trovato. Oggi tu pensi a una cosa simile, un po' cedere, no? Ma in quel periodo lì succedeva anche quello, insomma, quelle. Ma la tua bicicletta, questo periodo è protagonista di tutta l'ultima parte, l'ultima parte dei tuoi racconti. C'è un altro passaggio che riguarda la tua bicicletta, mi hanno detto. Okay, quindi leggiamo il numero 3, adesso un altro passaggio che riguarda la tua preziosa bicicletta, se non sbaglio. Stava semplicemente accadendo che parecchi dei soldati tedeschi in ritirata, per mancanza di carburante o per guasti dei loro automezzi, erano rimasti. È un po' il seguito. Certo, sì. Infatti siamo passati. Erano rimasti appiedati. Ed ecco che le belle biciclette degli operai sarebbero potute divenire per loro ottimi mezzi di trasporto sostitutivo. E se le stavano portando via con le buone o con le cattive maniere. Chi offrendo denaro, altri con la minaccia delle armi, come lo sparo di pochi minuti prima che era servito per convincere un riottoso. Chiarito il motivo di quel precipitoso rientro in fabbrica dei miei due amici, mi ero bloccato anch'io ed ero ritornato verso l'ufficio. Potevo considerarmi una volta ancora fortunato per aver potuto salvare la preziosa bicicletta, ma occorreva trovare subito un buon nascondiglio. In quei grandi capannoni i nascondigli non mancavano, ma il migliore di tutti lo aveva trovato il buon Filippo, l'interno di un alto forno ovviamente spento. Quindi tutti a piedi, diretti verso casa, a tratti mescolati addirittura con i soldati tedeschi che avevano ormai invaso tutte le strade della città e della periferia. Non che tutti fossero in movimento, molti erano in marcia da ore e si stavano sistemando in maniera precaria per la notte. Parecchi erano evidentemente rimasti appiedati ed avevano perso il contatto con i loro reparti. Lo si capiva dal fatto che non sapevano dove andare e chiedevano informazioni. Altri reparti erano viceversa ancora uniti dal comando dei loro ufficiali. Continuavano a comportarsi come se nulla fosse accaduto. con uno di quei reparti comandato da un fanatico ufficiale SS, mi ero incontrato circa un'ora più tardi, quando a piedi ero arrivato in piazza di Riese. Quel prepotente ufficiale, evidentemente colto da un momento di rabbia, non avendo inteso accettare la sconfitta, aveva bloccato piazza di Riese e stava disponendo gruppi armati ad ogni incrocio. Aveva addirittura piazzato un grosso carro armato Tigre nella leggera strettoia da dove si diparte da via Vittorio Veneto. Paradossalmente, in senso contrario, era sopraggiunto in quei minuti un altro identico carro armato. Era andato a finire che due mostri di acciaio incredibilmente larghi, nel tentativo di incrociarsi proprio in quel punto fra le due case, si erano addirittura strisciati e agganciati. A parte il fatto che dei danni causati fra di loro pareva non importasse un fico secco a nessuno, i piloti avevano continuato a fare brevi manovre di avanti e indietro a suono di ruggiti possenti e fumate dei motori da far paura. Oltre ai danni causati ai loro stessi mezzi, con i mostruosi cingoli erano riusciti ad intaccare addirittura le mura delle due case prospicenti, lasciando incisioni profonde e indelebili negli intonaci, incisioni che erano rimaste tali, quasi un monito, per oltre 30 anni, fino a quando cioè i due edifici non erano stati ristrutturati e ridipinti. A pochi passi da quel luogo, la presenza dei rispettivi terrorizzati proprietari degli edifici, fra i rumori infernali causati dai due panzer e le imprecazioni dei militari, me ne restavo fermo in attesa venisse liberata la strada. Ma visto che le cose stavano andando per le lunghe e le persone in attesa erano diventate tre o quattro, uno dei carristi, finalmente uscito dalla torretta, aveva fatto cenno di salire sopra. E così, per la prima ed ultima volta nella mia vita, avevo osato arrampicarmi su quella paurosa macchina da guerra e reggendomi proprio la canna del cannone attraversarla fino a scendere dal lato opposto. Sì, allora, anche questa cosa qui, no? Tu pensa dove può succedere mai, no? Se non... E a chi soprattutto? Solo a te. Quindi siamo ormai verso la fine della guerra, abbiamo raccontato e anche verso la fine della serata. Sì. C'è qualche speranza, insomma, che qualcuno, esatto. Io volevo concludere, arrivare verso la fine. Sì. In questo racconto abbiamo sentito che due biciclette erano state nascoste alle acciaierie, però a un certo punto tu prendi un attimino uno spavento perché credi che queste biciclette magari non erano più integre, e quindi volevo far venire qui il Tonio, lettore numero 4, giusto, per raccontare anche un altro episodio, diciamo così, sì, leggero, relativo tutti episodi alle biciclette, e poi andare verso la fine e rispondere anche alla domanda, sì, del quella è la più tragica. Esatto, no, sono... cerchiamo di rimanere sul leggero per finire poi con dando una risposta al nipote. Grazie. Grazie tanto. Grazie. Finalmente tutto era finito. Ed incontrarsi con qualche amico o conoscente in città, direbbero ben pochi, era occasione per esultare e gioire. La mia fedele bicicletta era al sicuro nell'alto forno, fino a quando non l'avessero riacceso delle acciaierie. I tram non circolavano in quei giorni ed anch'io pertanto ero costretto a muovermi a piedi. Tutte le strade principali erano intasate da auto, camion, cingolati, cannoni e quant'altro. Che episodi. Sì. Abbandonati dai militari in ritirata e allo sbando. Gran parte delle armate che avevano combattuto lungo i fronti meridionali erano finite con il ritrovarsi in ritirata proprio in Alto Adige. I militari tedeschi si trovavano ormai dappertutto e per mancanza di carburante erano in gran numero piegati. Quel fatidico giorno, il 3 maggio 1945, eravamo tutti, parlo dei pochi italiani rimasti a Bolzano, in attesa dell'arrivo delle truppe americane. La mia convinzione era che sarebbero dovuti arrivare già uno o due giorni prima, incalzando i tedeschi. Poi ero venuto a sapere che gli eserciti in ritirata, sia pure a guerra perduta, avevano continuato a far saltare ponti e strade dopo il loro passaggio, evidentemente non avevano perso l'abitudine. Ad un certo punto, in Piazza della Vittoria, mi ero incontrato con Giorgio. Era preoccupato che le acciaierie avessero ripreso il lavoro e che gli altri forni fossero stati riavviati. Non credevo molto a tale eventualità, però il solo pensiero di ritrovare le preziose biciclette fuse ci aveva indotto ad avviarci a piedi verso la zona industriale. E ci eravamo fatti prendere dall'ansia alla vista di un camino fumante all'interno delle acciaierie. Quasi mi era venuto un infarto. Non appena entrato in stabilimento alla vista di operai in tuta che stavano lavorando e mi ero sentito mancare allorché non avevo trovato traccia delle biciclette all'interno del forno. Per fortuna Giorgio aveva già potuto chiarire tutto. Gli operai al lavoro erano quelli della manutenzione e le nostre biciclette erano state tolte e messe al sicuro. Dopo un tale colpo di fortuna avevamo deciso di concederci il lusso di un pranzo in mensa e inaspettatamente in funzione. Ti dicevo, questi episodi qui si sono svolti a distanza di pochissimi giorni, un po' infatti sì, sei capito, anche perché appunto lo stabilimento era fermo e noi lo potevamo girare, altrimenti non saremmo stati oggi qui e domani lì, certo, in giro per la città, perché poi questa specie di occupazione forzata da parte di tutto questo esercito in ritirata è durato qualche giorno, no? Certo. Non ti pensi poche ore o una giornata o due, no? E no, è cominciato non so, una settimana prima e era durato fino a già dopo la fine della guerra, cioè la guerra in realtà era già finita. Adesso veniamo, credo, all'episodio che viene descritto in una maniera, tu l'hai vissuto personalmente, sei uno dei rari testimoni viventi della notte, della, come in effetti è, non come in effetti la scrivono sul giornale erroneo. Questo è interessante sapere. Sì. Tu l'hai letto, Mario? Sì, sì, sì. Ecco, sì, tuo nipote, giusto? Sì, uno dei tanti. Il paradossale era che la guerra era già finita e anche i tedeschi avevano già firmato il contratto di armistizio il 29 aprile. Qui eravamo la sera del 2 maggio. Esattamente. E ancora passavano davanti agli ingressi in via Volta questi ultimi tedeschi, insomma, che poi venivano a confermarsi ancora, e c'era stata anche una leggera sparatoria, ecco. Però poi adesso tu hai qualcosa da far leggere? No, abbiamo finito le letture, volevo che tu concludessi. Purtroppo so benissimo che quello che dico adesso offenderà qualcuno. Nessuno. No, nessuno dei presenti ovviamente, ma io quel pomeriggio lì ero stato contattato all'interno dello stabilimento, anche se ormai eravamo lì, si faceva più niente, insomma, c'era chi già se ne andava a casa, ero stato contattato, c'era un certo movimento di. E c'erano i partigiani, insomma, no? Vedevo che tiravano fuori armi e c'era uno col barbone, no? Ciappa qua, ciappa, ragazzi, portate giuste cassette qui, erano cassette di munizioni, di bombe a mano, belle pesanti, bisognava buttarle di sotto nel rifugio antiaereo, poi anche dei fucili, cioè quelli. Io capivo, non capivo, stava preparando per la guerriglia, ma io di quelle cose lì non ne volevo sapere, no? Comunque ho dato una mano lì per lì con un altro a portare giù una di queste cassette, cioè più di una, e una si è proprio sfasciata giù per le scale, sono rotolate giù queste decine di bombe colorate, bombe a mano, ricordato, metti caso che una non sia disinnescata, no? Sai che bello. E tant'è che poi ne avevo parlato col capo reparto e anche per sapere, ma dico cosa succede, e dice non è un obbligo, ma se ti vuoi fermare a dare una mano, ma dico cosa fanno? Ma dice niente, l'intenzione è solo quella di difendere lo stabilimento. E nella nostra ignoranza poi dell'epoca, perché a Bolzano in realtà i partigiani, salvo qualcuno occulto, ma insomma è stato, insomma non era come nelle altre province, e lì erano saltati fuori e perché poi sai, tutti ne parlavano, ci devono essere i partigiani rossi e i partigiani verdi. Ecco quel tale che ti aveva fatto portare giù le armi e le bombe. E quando ho chiesto qualcosa mi ha detto ma quali partigiani verdi, qua siamo noi, no? E erano solo i rossi, insomma, no? E ecco, quella notte poi io comunque poi ho visto la malaparata, ho preso e insieme ad altri, insomma, alle 6 la sera. Bene, siete andati. Siamo andati a piedi a casa, insomma, e infatti poi mio papà per vari giorni credo non mi avesse neanche lasciato uscire, o comunque il giorno immediato no. Insomma, di notte c'è stata la sparatoria. E cos'era successo? Qualche partigiano, così goditoriamente, aveva iniziato a sparare contro i tedeschi che erano praticamente fermi, non era da dire che stessero passando e ripassando, era quasi sì, qualcuno forse si muoveva ancora. E figura di tedeschi con i loro armamenti, con la loro tecnica, e cosa gli è costato tirare fuori di nuovo queste mitragliette e dare qualche sventagliata. Insomma, è finita che la mattina dopo in zona industriale si sono contati 55 morti, mica bau bau, micio micio, come dice Foderi. Come si chiama? E, no, non è uno scherzo, è qualcosa di simile, è successo anche a Trento, anche lì una cinquantina di morti, più chissà in altre città, non lo so. Certo, io ero ben contento di essermene andato a casa. Certo. E tra l'altro la cosa mi ha disgustato perché quando sono uscito dallo stabilimento ho salutato un ragazzo di 16 anni che era il figlio del capo della portineria, che stava lì praticamente. Era molto simpatico, un ragazzo giovane, educato, bello, pulito. E mi salutava e intendeva ancora darmi del lei, no? Ma dai, porco cane. Insomma, ci siamo salutati e la mattina dopo sono venuto a sapere che era morto anche lui. Cosa era successo? Era scappato il cane e c'era già un po' di sparatoria in corso e lui è corso fuori e ha aperto il cancello per recuperare il cane e qualcuno lo ha sventagliato. Tra l'altro però, a proposito, che poi questa cosa mi ha indignato non solo da parte dei partigiani, perché non l'avrebbero dovuta fare, perché era stupido andare ad attaccare i tedeschi in fuga, cioè in ritirata, quando già è tutto finito. No, notate, questo avveniva il 3, la mattina del 3 maggio, la guerra era finita il 29, cioè sono documentazioni, 55 morti a Bolzano, ma scherziamo, che tra l'altro poi gli ultimi sono morti su un tram o Trisalco, perché si vede che qualcuno lì ancora aveva sparato contro i tedeschi e un tedesco aveva dato una sventagliata con la mitraglietta Spandau, quella che portavano attaccata con una cinghia, no, che era micidiale per l'epoca, un altro che Strasnikov di oggi, no? E quelle cose lì mi hanno fatto andare veramente in bestia, insomma, sia da un lato da parte italiana, partigiana, che ancora dai tedeschi, ma cosa andate a sparare anche voi, no? Tant'è che io scrivo due righe a un certo punto, talmente di rabbia, che credo di aver scritto testualmente e avevo giudicato, ero talmente stufo di sentire parlare di morti, di sparatorie, di aver definito proprio i tedeschi al 100% assassini. Non so se qualcuno si offende, ma per me era così, no? Certo. Scusa, forse sono andato un po' fuori. No, era questa la domanda. Tu l'avevi letta questa cosa? Certo, sì. Comunque io direi di terminare qui la serata. Ringrazio Pietro, ringrazio tutti voi di essere stati qui con noi fino a